Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Benvenuti a Mebius. Noi oggi incominceremo con l'LHC, il grande macchinone di Ginevra che abbiamo sempre seguito e che riprende a funzionare. A tutto gas, è ripartito. A tutto gas, potenza poi quasi doppia. Racconteremo di protesi medicali stampate con le stampanti 3D. Bellissimo progetto e finiremo con le vertigini con 2G. Le malattie inventate che sono protagoniste del nostro nuovo concorsino che si chiama Videocondria. Dopo vi diamo tutte le istruzioni per partecipare. Via, iniziamo. L'LHC, la grande macchina, il grande acceleratore di particelle che noi abbiamo seguito con tanto affetto in questi anni, è stato un po' fermo per aumentare di potenza, adesso riprende la sua attività e abbiamo qui con noi questa sera Sergio Bertolucci, direttore di ricerca al CERN di Ginevra. Buonasera Bertolucci. Buonasera Pedrocchi. Mi viene di darti del tu proprio come un afflato amicale, perché qui io e Chiara Mebius siamo preoccupati in quanto questa volta andate veramente oltre di potenza. Allora ci immaginiamo uno scenario tipo una grande luce blu che a un certo momento, una delle prossime sere, andrà verso l'alto, si spegnerà la mattina all'alba, ci sarà questo bel prato che c'è sopra l'acceleratore e voi sarete trasformati in paperotte e leprotti. Questa volta andate troppo oltre, non avete questa paura, questa sensazione? Abbiamo paura di arrivare in ritardo, tra l'altro Federico, se ehi, riuscissimo a fare questa cosa, immaginati te che fantastica pubblicazione ne verrebbe fuori. Beh, certo, anche delle foto meravigliose. Sì, foto, e come dicono gli inglesi, un famoso paper, questo caso sarebbero papere più che paper, ma esatto, paperotte e leprotte, che però sapranno tutto ma forse non riusciranno a dircelo. Allora, qui ci stanno uscendo articoli insomma su questa ripresa della macchina che andrà quasi a una potenza doppia rispetto all'iniziale. Potenza è proprio l'energia. Aumentiamo l'energia da 8 TeV, sì. Un TeV è 1000 miliardi di electron volt, dove facevamo funzionare la macchina quando abbiamo scoperto il bosone di Higgs. Adesso andiamo a 13 TeV, che è vicinissimo, ma non ancora esattamente l'energia di progetto di questa macchina. Ci teniamo l'ultimo TeV di riserva perché vogliamo sempre avere una cosa in più da fare. Va bene, va bene. Allora, buona fortuna. Però adesso noi dobbiamo riuscire, Sergio, in non troppo tempo, a spiegare una cosa abbastanza importante. Io ho letto una serie di articoli anche su Nature, su riviste scientifiche, che dicono che vi state avviando verso l'unknown, lo sconosciuto, anzi se non sbaglio Nature, addirittura la prestigiosa Nature parla lo sconosciuto delle cose sconosciute. C'è un qualcosa che è molto diverso da quello che avete fatto finora, perché avevate finora una certa teoria che dava delle indicazioni su quello che avreste potuto trovare e voi siete andati in quella direzione e effettivamente avete scoperto. Qui c'è una dose di incognito più forte. Com'è che riesci a spiegarci questa cosa? Questo è vero perché con il bosone di Higgs la nostra teoria, la teoria delle particelle elementari, quella che noi chiamiamo il modello standard, è completa. Per cui da ora in poi viaggiamo senza una carta di riferimento. Nel caso del bosone di Higgs non era detto che il bosone di Higgs sarebbe stato il coronamento del modello standard, però sapevamo che entro la fine del 2012 o avremmo trovato il bosone di Higgs o avremmo dimostrato che non esisteva, sì. Che è diverso da dire che non trovarlo, è dimostrare che non c'era, In questo caso avremmo saputo di sicuro che c'era nuova fisica, perché il modello di fisica descritto dal modello standard sarebbe stato falsificato. Ora, quello che è di fronte a noi in realtà sono due strade che noi cominciamo a percorrere adesso e percorreremo per i prossimi 15 anni, di sicuro che è il programma di LHC minimo per i prossimi 15-20 anni. Uno è continuare a studiare il bosone di Higgs e ti spiego il perché. Perché ora noi sappiamo che questo la particella che abbiamo trovato è un bosone di Higgs. Non sappiamo se è il bosone di Higgs, quello del modello standard, perché non abbiamo ancora misurato tutte le sue caratteristiche con sufficiente precisione. E va bene, questa è una prima possibilità. E però l'altra, come tu dicevi, che è quella anche che ci riempie di più trepidazione, è che ora ci stiamo avviando verso un'esplorazione di un territorio inesplorato, di cui non abbiamo le carte, di cui abbiamo delle carte spesso disegnate su delle ipotesi. Ci sono delle teorie, ad esempio, che potrebbero spiegare l'esistenza di particelle supersimmetriche, che a loro volta potrebbero essere una buona spiegazione per la materia oscura. Però queste teorie sono teorie, appunto, non sono modelli come il modello standard, che era già stato verificato in altri aspetti e gli mancava questo mattone fondamentale che era il bosone di Higgs. Ci sono altre teorie, ad esempio, che altrettanto interessanti da un punto di vista del cambio di prospettiva sulla natura, che sono ad esempio quella che a NKGC potremmo riuscire a vedere altre dimensioni dello spazio. E questo sarebbe una delle cose fantastiche, perché se ci pensi bene, una delle grandi rivoluzioni che sono successe nello scorso secolo, 100 anni fa, quando è stata scritta la relatività, la meccanica quantistica, entrambe le teorie necessitano un profondo ripensamento del concetto di spazio e di tempo. Sì. Nell'universo di adesso, che è diventato freddo, molte di queste dimensioni sarebbero un po' come arrotolate su se stesse. Sergio, dimmi se sbaglio, per vedere di chiarire in che modo c'è un incognito di grandissimo rilievo. Tu poco fa facevi riferimento agli inizi del secolo scorso, quando appare, no, una teoria come la meccanica quantistica, che effettivamente è un grande paradosso. Facendo un esempio molto semplice, la meccanica quantistica è come se dicesse che posso avere un chilo di mele oppure 2 chili, ma 1 chilo e 2 etti, 1 chilo e 3 etti non esistono, no? Fu una roba assolutamente paradossale, perché tutti dicevano: ma come può essere che c'è una cosa che può essere in A e andare in B e non passare in mezzo, no? Però poi noi con questa teoria qui ci abbiamo costruito apparecchiature elettroniche, no? E quindi quello che tu vuoi dire è che potreste anche scoprire che c'è un grande paradosso con il quale fare i conti e che cambia completamente un insieme di paradigmi che abbiamo avuto fino adesso. Questa è la nostra speranza. Noi sappiamo che il modello standard, che funziona molto bene, ma funzionava molto bene anche l'elettrodinamica di Maxwell e la meccanica di Newton, certo, è incompleto. Lo sappiamo perché non spiega troppe cose di cui abbiamo evidenza sperimentale, l'esistenza della materia oscura, non incorpora in questo modello la forza di gravità, non spiega perché nell'universo c'è una prevalenza della materia sull'antimateria. Per concludere, Sergio, si potrebbe fare questo esempio: quando Cristoforo Colombo parte dal Portogallo, lui ha un'idea che deve incontrare, no? C'ha una teoria, deve incontrare della Terra, perché il mondo è tondo, poi va a zigzag per un bel po', ma poi effettivamente lui era convinto che fosse l'India, invece erano le Americhe. Voi siete un po' nella situazione invece di 2000 anni prima, quasi, quando i Fenici arrivavano allo stretto di Gibilterra, e però dicevano: che cosa diavolo c'è di là, potrebbe esserci anche un grande gorgo nel quale entriamo tutti e non torniamo più indietro. Insomma, cioè, effettivamente c'è un tasso di incognita molto più elevato. Buon lavoro, e ecco, state attenti, se vedete delle luci blu così, insomma, state attenti. Ti ringrazio e ringrazio tutti i tuoi radioascoltatori, e dico a tutti di stare attenti a vedere se compaiono le papere. Grazie. Ciao Sergio. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto entriamo nel mondo fantastico delle stampanti 3D e lo facciamo anche questa volta. Sì, con un'applicazione un po' particolare, ne abbiamo già parlato altre volte a Mebius, perché abbiamo parlato di oreficeria, abbiamo parlato di chirurgia, di ortopedia, però proprio in questi giorni, in questo weekend a Città della Scienza di Napoli, si presenta questa grossa iniziativa, questa grossa comunità che si è creata in rete, che si chiama Open Biomedical. Di che cosa si tratta? È la prima comunità online in Europa, e forse si sta ampliando anche a livello internazionale, di progettazione e realizzazione di dispositivi biomedicali. Allora, con due caratteristiche principali: sono open source e sono low cost. Qui con noi questa sera c'è Bruno Lenzi. Buonasera Bruno. Buonasera Chiara, buonasera. Benvenuto. Ecco, lei è ingegnere giovanissimo, 26enne, che è fondatore di questa community. Partiamo con quelli che sono gli obiettivi di questa community. A che cosa servono questi dispositivi biomedicali open source e low cost? E poi li descriviamo anche. Sì, perfetto. L'Open Biomedical Initiative sviluppa tecnologie biomedicali tramite stampa 3D. Allora vorrei introdurre cos'è una stampante 3D. Una stampante 3D è una stampante molto simile alle stampanti che abbiamo a casa, non fa altro che andare a stampare strato su strato del materiale principalmente plastico a formare l'oggetto. Quindi è come se ne prendessimo l'oggetto e lo dividessimo in strati, sezione su sezione. Tante fettine molto sottili che si accumulano e viene fuori l'oggetto, certo. Assolutamente, sì. L'effetto principale di utilizzare la stampa 3D è quello della personalizzazione dei dispositivi. Noi abbiamo iniziato con dispositivi protesici, abbiamo continuato con un'incubatrice, adesso apriremo altri progetti. Quindi dispositivi protetici, scusi Lenzi, sono protesi meccaniche della mano e anche state pensando agli arti inferiori, corretto? Esattamente, okay. Esattamente. E poi un'incubatrice neonatale, diceva. Sì, esatto, okay. Esatto. Tramite la stampa 3D noi possiamo andare a personalizzare l'aspetto e anche la funzionalità. Le faccio un esempio. Le esigenze di persone che abitano nei paesi del terzo mondo, ad esempio l'Africa o l'America del Sud, sono molto diverse sia per morfologia del terreno sia per stili di vita rispetto alle esigenze di persone che abitano nei paesi industrializzati. Oppure le faccio un altro esempio: è molto più semplice andare a portare in queste zone una stampante 3D e quindi anche il filamento, cioè un po' l'inchiostro di questa stampante, piuttosto che portare delle incubatrici che per forza di cose hanno un volume molto maggiore. Quindi l'utilizzo della stampa 3D ci permette di superare molti limiti geografici, sociali ed economici. Allora, facciamo un esempio. Lei dice, se noi ci trovassimo in un campo medico, in un ospedale da campo, in zone critiche, chiaramente stiamo parlando di questo, e abbiamo bisogno, non so, di una protesi alla mano o una protesi di un piede oppure di un'incubatrice neonatale, ovviamente non possiamo ordinarne 300 dall'Europa o dal mondo occidentale, ma diciamo, avendo lì una stampante 3D, il medico o comunque l'infermiere può in qualche modo personalizzare e produrre in loco il dispositivo, è così? Esattamente, inoltre c'è anche un aspetto molto interessante: se dovesse rompersi una parte di questo dispositivo, e avviene molto facilmente, invece di richiedere l'intero dispositivo, si può andare a stampare quella determinata parte. Quindi sicuramente l'utilizzo della stampa 3D è una cosa completamente rivoluzionaria nel campo biomedicale. Cerchi di farci capire però una cosa, cioè un'incubatrice è un oggetto di una certa dimensione, fatto di tante parti diverse, c'è anche del vetro, no? Mentre invece una protesi o un particolare di una protesi è un oggetto molto più piccolo. Non ci è chiaro che cosa significa stampare con una stampante 3D un'incubatrice e perché è utile effettivamente farlo in questo modo? Certo, allora innanzitutto un'incubatrice è formata da diverse parti, quindi parti plastiche ma anche parti elettroniche. Sì. Quelli che sono oggi i limiti non sono dei limiti invalicabili, ma sono solamente dei limiti temporanei. Cosa significa? Che fino a circa 6-7 mesi fa non era possibile stampare circuiti elettronici, invece adesso possiamo farlo. Abbiamo trovato con l'incubatrice un problema abbastanza importante: andare a rendere i due lati dell'incubatrice trasparenti, perché non ci sono dei materiali per la stampa 3D trasparente. Stiamo riuscendo a fare delle ricerche in merito e pensiamo che probabilmente nei prossimi mesi riusciremo a produrre un filamento che sia totalmente trasparente. Quindi l'utilità è andare a portare un'incubatrice, le faccio un esempio, 10 incubatrici occupano circa un camion. È molto difficile che un camion riesca ad arrivare in determinate zone, sia per la morfologia del terreno, ma anche per la le problematiche certo. di attentati, sì, assolutamente. E qual è la caratteristica del nostro progetto? È quella che i file, e quindi poi materialmente l'oggetto, viaggiano nell'etere, viaggiano su internet, quindi noi superiamo immediatamente, andando ad inserire file su internet, qualsiasi barriera geografica. Questa è sicuramente una grande cosa. Qui manca un pezzo forse che dobbiamo spiegare. Uno ha la stampante in loco, no? Per esempio in uno di questi ospedali come quelli di Emergency, no? Per esempio, di Medici Senza Frontiere. O di Medici Senza Frontiere, ha la stampante e può ricevere via internet un file che quindi è un piccolo programmino che guida la stampante e le dice come fare un'incubatrice, per esempio, no? Questo è l'enorme vantaggio, certo. E poi lei parla al plurale di questa comunità. Da chi è composta questa comunità online e perché è così importante che appunto siate in rete? Siamo una community che conta circa 70-80 persone solamente in Italia e la caratteristica fondamentale è quella di andare a collaborare online per la realizzazione in maniera completamente virtuale per la realizzazione di questi dispositivi che, come dicevo prima, vengono poi inseriti su internet, ma ci teniamo a precisare che siamo di supporto alla biomedica tradizionale, perché si può pensare magari che andiamo a creare una biomedica totalmente nuova, non è assolutamente questo, insomma vogliamo solamente fornire dei mezzi digitali, quindi nuovi, a persone preparate ed esperte che hanno sempre fatto quello che vorremmo facessero. Andate ad affiancare in situazioni dove effettivamente questo affiancamento può fare una differenza. Questo concetto di open source in questo caso specifico significa, no, che chi vuole progettare magari dei miglioramenti di un certo pezzo che voi fornite, no? Inizialmente è possibile farlo perché il programma, diciamo tutta l'attività è aperta e voi potete avere collaborazioni da parte di tanti. Puntiamo esattamente a questo. Con la stampante 3D, quando lei parla di protesi, per esempio, di una mano, cosa vuol dire? Cioè che oggetto tiriamo fuori? Davvero una mano intera oppure voi puntate a dei particolari, diciamo, di funzionamento di questa protesi? Noi siamo partiti inizialmente da una sindrome, la sindrome da banda amniotica, quando l'individuo purtroppo non ha le dita. Siamo partiti da lì e quindi, avendo una parte del polso, tramite un sistema di tiranti l'utente riesce, abbassando il polso, a chiudere la mano. Quindi siamo partiti da questo livello qui. Con la protesi invece elettronica siamo riusciti a coprire la persona che avesse invece la mancanza dell'avambraccio. Ora piano piano stiamo cercando di estendere un attimino quello che è il bouquet di persone che hanno problemi biomedicali all'arto superiore, ma allo stesso tempo differenziandoci, andando a realizzare poi altri dispositivi come incubatrici, e adesso ne abbiamo già, dalla prossima settimana inizieremo un progetto che è totalmente nuovo. Questo è possibile anche grazie alle partnership che noi abbiamo con persone, con realtà molto importanti in Italia come Città della Scienza, ShareBot, che è l'azienda leader in Italia nella stampa 3D, 3D Italy, che è uno store internazionale sempre nella stampa 3D. Questo ci permette di poter spaziare un po' e di fare un ragionamento a risorse infinite, passatemi il termine. Ma quando lei dice che intervenite nel caso in cui una persona abbia perso le dita, vuol dire che la stampante 3D crea le dita mancanti? È un guanto, grosso modo, per farci capire. Sì, più o meno. Nel caso delle persone che soffrono di sindrome da banda amniotica, nel caso invece di una persona che non abbia l'avambraccio, è proprio una protesi a tutti gli effetti, cioè viene ricreato l'avambraccio dell'individuo e viene ricreata anche la mano. Ok, e a proposito di questo, in questi giorni sarà con voi anche una ragazza che si chiama Fabia Timaco, che sta tenendo un diario anche online, che appunto dice vi racconterò come avrò presto una mano stampata in 3D. È un po' la persona che sperimenterà, che sta per sperimentare questa protesi alla mano? Sì, esatto. Noi abbiamo conosciuto Fabia qualche settimana fa ad una fiera di stampanti 3D. Lei per esigenza, essendo una ragazza focomelica, ha esigenza di avere una protesi stampata in 3D, una protesi mielettrica da precisare. Scusi, protesi mielettrica sono protesi meccaniche che hanno anche un dispositivo elettronico, quindi diciamo una protesi della mano, ad esempio, che si può muovere. Okay. Però entrando nell'Open Biomedical Initiative ha trovato anche la via per fare altro, e infatti ha iniziato questo diario per Che Futuro è Make in Italy, due siti molto importanti nel campo dell'innovazione, in cui spiega settimanalmente, racconta qual è la vita all'interno dell'Open Biomedical Initiative. Quindi il problema di Fabia che cosa consiste? Di solito in questi casi, lo dico io insomma, però lei mi corregga, ha una mano che però è molto attaccata alla spalla, per esempio, no? Non è così la situazione. Quindi voi in questo caso riuscite a fare una protesi invece che le crea un braccio? A tutti gli effetti, assolutamente, è un braccio personalizzabile. Lei aveva avuto inizialmente delle problematiche con altre protesi, ad esempio il peso oppure la conformazione, il fatto che non ci fosse il passaggio per far respirare poi l'avambraccio rimanente. Noi stiamo cercando, e possiamo farlo con la stampa 3D, di gestire il peso, di gestire la morfologia della protesi, di gestire anche le varie aperture per far respirare l'avambraccio. Quindi certo, è un qualcosa che possiamo sicuramente fare. E i nostri dispositivi, a livello estetico, a livello di funzionalità, naturalmente non possono essere equiparabili a quelli commerciali, che sono molto più costosi e anche molto più innovativi. Sicuramente sono altrettanto sicuri. Okay. Questo è importante. Però lei sottolineava il fatto che c'è un vantaggio in termini di costi che, per esempio, in molti posti del mondo può fare una grande differenza. Sì, qui torniamo un po' al discorso iniziale, certo. Fa una grande differenza. L'utilizzo di queste stampanti 3D permette un forte abbassamento dei costi, e questo ci permette di entrare in zone dove ci sono persone, e stiamo parlando di 6 miliardi di persone rispetto ai 7 miliardi, quindi una grandissima percentuale che ha le stesse esigenze nostre, ma purtroppo non ha le stesse possibilità. Certo. Quindi noi siamo partiti proprio da questo target, da queste persone qui, poi abbiamo scoperto che effettivamente non serviva andare neanche troppo in là, perché ci sono molte persone qui, faccio un esempio, in Italia, ma in qualsiasi paese industrializzato, che comunque non può permettersi dei dispositivi medicali di cui avrebbe bisogno. E questo, certo, lo immaginiamo. E si può pensare anche, come dire, un primo intervento che magari dura qualche anno, fino a che poi c'è la possibilità invece di avere una protesi più complessa più e più efficiente. Però insomma si incomincia a risolvere. Certo. Sì, lì diciamo comunque la stampa 3D è un argomento veramente veramente nuovo. Le grandi aziende hanno sempre utilizzato stampanti 3D professionali. La stampa 3D homemade, quindi consumer, quella fatta a casa, comunque accessibile, è una cosa veramente veramente nuova. Siamo convinti che nei prossimi anni ci sarà un'innovazione pazzesca in questo settore, e quindi siamo altrettanto convinti che tra qualche anno riusciremo a raggiungere degli standard veramente veramente molto elevati. Beh, con le stampanti 3D un po' grandi si fanno anche delle case. Sì, ne abbiamo parlato anche qui a Mebius. In bocca al lupo, Lenzi. Perfetto, vi ringrazio. Ci tenga informati, arrivederci. Primo festival di videocondria. Sì, basta con queste malattie vecchie, la scarlatina, il morbillo, e gli orecchioni, e la pertosse, ma basta. Basta, inventiamone delle nuove, anzi inventatevene delle nuove, magari anche con la possibile terapia. Ah beh, certo, se c'è una cura, tanto meglio. Tanto di Però guadagnato. Devono essere malattie assolutamente inventate. Per esempio, le vertigini, non ho mai sentito parlare di questo. Vertigini con 2G? Con certo, 2G. Una malattia notizia. notissima, notissima. Ti vengono tutte delle macchiette sulla faccia. Sulle... Come se fossero delle lentiggini. Esatto. Ma che viste! Da vicino. Da vicino, in realtà. E c'hanno una spirale, no? Dentro. Ogni sono puntino... dei mini vortici. Esatto, sono i mini vortici che girano verso sinistra, in senso orario, no? E allora, a un certo momento, se non stai attento, ti si gira la guancia. Ti si gira come però c'è già la cura. C'è già la cura, che è un trapanino, e tra l'altro è anche previsto dal servizio sanitario. Ma certo, da poco, passato dall'ASL, state sereni. C'è un trapanino che ti gira dall'altra parte. Ah, gira la guancia, sì. la vertigine al contrario. La malattia, la vertigine dura un mese, però col trapanino, certo, il pomeriggio la no, metti no. A posto, se non ne hai troppe. Non è una malattia grave, via, curabile. Ed esistono anche delle malattie professionali, certo. Noi purtroppo abbiamo dei colleghi che... Noi non siamo affetti da questa malattia. Roba qui no. Ad esempio, alcuni hanno l'ansia da non ascolto. Federico, esatto. Ti dice qualcosa? Sì, cioè vuol dire che praticamente, siccome sei terrorizzato, che andando in onda non senti chi sta intervistando, così... Allora, come dire, ti riempie un po' la testa di cuffie, no? Ah, certo. Ne basterebbero certo. Due, mentre invece te ne metti 4 o 5, anche staccate poi. Speriamo cioè che non ci colga, sì. Poi abbiamo sentito parlare di rinite microfonica. Esatto. Robe veramente... Sì, perché vedi, noi usiamo questo qua, questa cosa di gomma. Questa no? spugna antisputacchietto. Ecco, che se io la tolgo... Sentite, ecco, se sì, pronuncio una pip, ecco. Si sente che c'è questo verso della pip. Se invece lo metto, ecco, non lo sentite ecco. E invece più. Ad alcuni colleghi, pensate, crescono delle strane appendici sulla sì. faccia con, diciamo... È la vicinanza, no? Con la spugna certo, del microfono certo. Che si trasmette al naso, inizia con un piccolo... Poi si trasforma. Poi certo, si trasforma certo. E diventa grande. Bisogna curarla, non c'è ancora la cura, ma non insomma si sta lavorando cura. Per questo. Oh. E poi è il tecnico ad esempio che sta registrando questo in questo momento, Carmelo, ce l'ha. Carmelo ce l'ha. Mi spiace Carmelo, dobbiamo dire che hai la mixerite. La mixerite, sì. Che vuol dire, insomma, siccome è usano... È una moltiplicazione, diciamo sì, così, di arti. 20 dita, arti, praticamente. Arti superiori. Anche se il mixer non lo richiederebbe, però loro... Però sai, per avere più prestazione, per avere tutta l'ampia panoramica del canale... C'è un vantaggio professionale, però sì, certo, sì. Dal punto di vista delle relazioni è un po'... Se anche voi, come dire, avete questo problema, cioè avete delle malattie inventate da raccontarci, facciamo così. Vi proponiamo un contest, un concorsino. Allora, si chiama Videocondria, l'abbiamo detto all'inizio. Si tratta di realizzare un video della durata massima, attenzione, di 90 secondi. Non di più. In cui voi ci raccontate attraverso un video fatto in maniera davvero semplice, col cellulare, la webcam, sì. Il tablet, quello che volete. Lo realizzate. Ci fate vedere qual è la vostra malattia immaginaria, certo. Ecco, se avete una cura eventualmente ci spiegate certo, anche quella, poi lo caricate su un vostro canale YouTube e ci mandate il link, dove alla solita mail, al solito indirizzo, moebius@radio24.it. Magari in oggetto indicateci il contest, cioè la videocondria. Poi a che cosa serve e quali saranno i ricchissimi premi? Vi daremo indicazioni sì. Più avanti, però sappiate che i migliori verranno pubblicati sul sito della radio. Se ci saprete anche stupire, verrete ospiti in trasmissione e non aggiungiamo altro, Fede. Andate al blog che avete più dettagli. Tra l'altro questa iniziativa è collegata a un festival della medicina nella quale ci sarà anche Moebius a Bologna a maggio, e troverete sul blog i particolari anche di questa iniziativa su radio24.it. Ecco. Per oggi è tutto, direi. Per oggi è tutto, sì. Non mi sento bene. Cioè? Non so, mi sembra di non sentire bene come andiamo in onda. Non so, vabbè.